Gli irrinunciabili presenta gli spietati, un film di Clint Eastwood. Gli Spietati è un film importante, perché è atipico e diverso. Non ci sono eroi, belle donne da salvare, nobili motivi o eroismi. I personaggi fanno quello che fanno per necessità, o per puro tornaconto personale. Non esiste la leggenda o il mito. È un film crudo, che distrugge il mito idealizzato del West che Hollywood ci ha consegnato in tutti questi anni. Il protagonista è William Manny, interpretato da Clint Eastwood, che è anche regista. Ha un passato da fuorilegge, si è macchiato di crimini orribili e feroce, ha ucciso donne e bambini. Sua moglie però lo ha redento, ma ormai è vedovo e con due figli piccoli, che deve sfamare. Fa l'allevatore ma con scarso successo. Lo vediamo cadere nel fango in mezzo ai maiali nelle prime scene del film. Se la passa male. Ed è il suo passato di violenza ormai alle spalle. Accetta dunque un lavoro da fuorilegge, non potrebbe essere altrimenti. Viene aiutato dal suo vecchio amico Ned, interpretato da Morgan Freeman, e da un giovane ragazzo sbruffone che incontrano per caso. Alcune prostitute vogliono vendicare una loro amica, sfregiata da due clienti. Il lavoro consiste nel trovare questi due cowboy e ucciderli. Lo sceriffo del paese però la pensa in maniera differente. Little Bill, interpretato da un Gene Hackman brutale e pragmatico, anche lui con un oscuro passato di violenza che vuole tenere nascosto. Lo sceriffo, Little Bill, si limiterà a punire gli autori del misfatto con una piccola ammenda. Dovranno dare alcuni cavalli al proprietario del bordello, poiché la prostituta sfregiata ormai non può più essere una rendita di soldi. Manny, nel portare a termine il lavoro, subirà un evento devastante per il suo equilibrio, che farà risorgere in lui la vecchia brutalità ormai perduta. La violenza ha sempre delle conseguenze, non si cancella mai del tutto, e il protagonista diventerà ancora cinico e spietato, perché tutti meritiamo di morire, i meriti non contano. Nel film è presente anche una figura minore, ma importantissima, è una figura grottesca, quella del biografo. È un omuncolo, meschino, pavido, scrive di eroi presunti tali, mitizzandoli con la sua prosa esagerata. Nel corso del film cambia il suo padrone più volte e lo venera sempre come un mito, come se fosse un cagnolino, per poi però accorgersi il suo malgrado che la realtà è brutale, che i suoi eroi sono mossi da istinti molto bassi, sono uomini come tutti gli altri, non hanno nulla di speciale e molte debolezze. Il mito del West e la sua epicità vengono ancora una volta distrutti. La colonna sonora è molto bella, per nulla invadente, lascia spazio a quello che succede sullo schermo. Anche lei è atipica come il film, perché si discosta dalle orchestrazioni esagerate cui siamo abituati forse da troppo tempo. La scena finale d'antologia, una degna conclusione di quanto lo spettatore ha visto. È un film non solo da vedere, ma da rivedere. Buona visione.